Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon venerdì a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salvadanaio. Dopo lo stress test sulle banche americane, la settimana di borsa che si chiude oggi è stata invece la settimana dello stress dei conti per le banche italiane. Gruppi quotati hanno presentato e stanno presentando le trimestrali. Sembra che tutto sommato la crisi finanziaria venga retta in modo dignitoso, ma sul fatto che le banche italiane abbiano saputo evitare di essere travolte dalla crisi appunto mondiale abbiamo già detto molto. Ora le trimestrali confermano questo quadro di tenuta per le banche italiane, anche se uscire dalle secche di questo difficile momento sarà ancora dura per tutti. Per il mercato azionario le prove non finiscono però con le trimestrali, perché a prescindere da queste il tema è anche il quadro macroeconomico complessivo. Questa settimana una pesante statistica sui consumi americani, il dato sulle vendite al dettaglio di aprile ha provocato a metà settimana appunto una giornata nera per gli indici internazionali, che poi hanno recuperato, ma il tema è sempre quello: navigare a vista, acquistare sulle notizie positive, correre a prendere profitto quando invece arriva la cattiva notizia che offre il pretesto per vendere. Tra l'altro, a parte i vistosissimi recuperi messi a segno dalle borse mondiali dai minimi di inizio marzo, c'è da fare anche un punto complessivo della situazione per quello che riguarda il quadrimestre da gennaio ad aprile, nel corso del quale ad essersi riportate in attivo sono state largamente le borse orientali. L'Europa invece è ancora in generale flessione, con l'unica eccezione di Piazza Affari. Allora, noi di tutto questo stamattina parleremo, come sempre offrendovi il nostro microfono. Potete chiamarci per le vostre considerazioni sull'argomento all'800240024 o ci potete scrivere al 349-238-6666. I nostri ospiti di stamattina: Renato Di Lorenzo è un consulente finanziario e autore di numerosissime pubblicazioni per il Sole 24 Ore. Il suo ultimo libro è Come non perdere in borsa, proteggere la posizione e gestire il rischio per guadagnare sui mercati finanziari. Ben trovato a Salvadanaio. Grazie, buongiorno. E buongiorno anche, non lo abbiamo ancora raggiunto telefonicamente, forse c'è Bruno Bargiano, responsabile delle gestioni patrimoniali per Banca del Piemonte. Bargiano, è con noi? Sì, buongiorno a lei e da radio ascoltatore. Eccoci qua. Allora, i numeri li ho ricordati, ricordiamo ancora 800240024 per intervenire in diretta, ma visto che parliamo di borsa andiamo anche a dare un'occhiata alla seduta di oggi. La mattinata era partita benino, non per tutte le piazze, poi gli indici sono rafforzati, sta rimanendo indietro Francoforte che guadagna adesso lo 0,17%, un po' meglio vanno Londra più 0,52% e Parigi più 0,46%, e ancora una volta per merito oggi dei titoli bancari è Piazza Affari ad essere la miglior piazza del vecchio continente, più 0,98% sull'S&P MIB, più 0,79% sul MIP. Intesa fa un più 5% in questo momento, segue A2A più 4,66. Parmalat ha comunicato i conti ieri sera e oggi il mercato la premia, più 4,20%. Abbiamo un recupero di STM, probabilmente sulla scia anche del recupero del tecnologico americano, del settore tecnologico americano, più 2,84%. Tenaris più 1,90%, Saipem più 1,76%, Pirelli più 1,48%, Unicredit più 1,32%. Poi abbiamo due banche che hanno comunicato i dati questa mattina, erano partite molto meglio, adesso ridimensionano un po' la loro corsa, ma hanno ancora il segno più. Monte dei Paschi più 1,11% e Banco Popolare più 0,67%. Chi se la passa male stamattina invece è la galassia del Biscione. Mediaset perde 4 punti, Mondadori ne perde 4, però Mediaset aveva corso molto dopo la pubblicazione dei conti, oggi si ferma. Chi invece non ferma la sua discesa è Geox, già ieri protagonista di uno scivolone, oggi il titolo sta rafforzando questa perdita, meno 3,41% anche in questo momento. Unipol meno 2,15%, Finmeccanica meno 2%, Buzzi Unice meno 1,89%, ribasso di oltre un punto anche per Fiat. Il rapporto euro-dollaro è 1,3558, il petrolio è ritornato a flirtare con i $59 al barile, ma si mantiene sotto i 60. Direi che possiamo lasciare la borsa per quello che riguarda la seduta in questo momento, però sentiamo un po' che cosa è successo nelle ultime settimane. Parleremo oggi soprattutto di banche. Sell in May and go away. Il vecchio motto dei mercati, vendi a maggio e scappa, quest'anno sembra non essere stato ascoltato dagli investitori. Anzi, Nelle prime settimane del mese, infatti, le principali piazze finanziarie sono state protagoniste di ripetute sedute positive, che hanno consentito ai listini di guadagnare in media il 3%. E Piazza Affari è stata tra le migliori, tanto da riuscire ad azzerare le perdite da inizio anno, riportando il bilancio in pareggio grazie anche alle prestazioni di titoli di peso come Fiat e i bancari. Ad infondere ulteriore fiducia al listino milanese, che dai minimi di marzo ha guadagnato circa il 60%, ha senza dubbio contribuito all'esito dello stress test, condotto sulle banche italiane secondo il quale i principali istituti Unicredit, Intesa San Paolo, Monte Paschi, Banco Popolare, UBI e la Popolare di Milano non dovrebbero avere problemi di patrimonializzazione in condizioni ancora più avverse di mercato. Che significa che non avrebbero bisogno di altre iniezioni di capitale, come invece dimostrato dal recente stress test condotto dalla Federal Reserve sui primi 19 gruppi finanziari americani. Certo, ampliando lo spazio temporale è pur vero che da ottobre a oggi le perdite restano consistenti, ma i minimi toccati lo scorso marzo per il momento sembrano un lontano ricordo, senza considerare che per alcuni esperti la ripresa in atto non è che un assaggio di un'ulteriore spinta rialzista. Secondo JP Morgan, per esempio, il rally delle ultime settimane non ha ancora esaurito il suo potenziale e ci sarebbe spazio per ulteriori rialzi, fino a un 30%. In sostanza, secondo la banca d'affari americana, agli attuali acquirenti devono ancora aggiungersi i ritardatari, cioè gli investitori che si sono persi la rimonta dell'ultimo mese e che potrebbero anticipare il rientro in borsa scardinando un'altra abitudine tipica dei mercati, quella che fissa il ritorno all'azionario a fine ottobre, in concomitanza di Halloween. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Potete iniziare sin da subito a prenotarvi o a scriverci al 349 238 6666. Interessante questa considerazione che fa un'importante casa di investimento, l'abbiamo citata nella nostra scheda, secondo la quale il rally non ha ancora esaurito il suo potenziale. In realtà intorno a questo aspetto le opinioni, le considerazioni sono molto diverse. C'è chi invece ritiene che siamo, come dire, alla vigilia di un'altra bella batosta per il mercato. Chiedo subito a Bruno Bargiano, Banca del Piemonte. Lei è dei, come dire, sostenitori della teoria del sell in May and go away, o questa crisi finanziaria comunque, come dire, ci impone di accantonare tutti quei detti che generalmente accompagnano i principali trend di mercato? Bargiano, quindi vendiamo in maggio e scappiamo, anche per prendere profitto di questo forte rialzo che è partito dal 9 marzo e che ancora sta continuando? Innanzitutto bisogna vedere chi può prendere profitto, perché ci sono molti investitori istituzionali o anche retail che sono completamente fuori dalla borsa o con posizioni molto piccole, perché o volontariamente oppure sono stati indotti da varie motivazioni, parlo specialmente delle banche, per un discorso di adeguatezza patrimoniale sono stati costretti a vendere posizioni a rischio. Mm-hmm. Direi che comunque la mia idea è quella, indipendentemente dal discorso di sell in May and go away, proprio perché ci troviamo di fronte a una crisi così profonda, praticamente dal 1930 crisi di queste dimensioni non si erano viste. Direi che tutti i parametri storici a cui andiamo a vedere, poter fare riferimento, è difficile fare riferimento a questi parametri storici sicuramente. Il rimbalzo dai minimi è stato molto importante, è anche vero, e va detto, che i livelli che erano stati raggiunti a inizio marzo erano probabilmente i livelli indotti da vendite forzate, dal panico degli investitori, e quindi veramente lontani da quelli che sono i fondamentali. Poi chiaro che entriamo in un discorso, quello dei fondamentali, su cui ci si può sbizzarrire, nel senso che i fondamentali negli ultimi 6 mesi i mercati proprio non li ha guardati. È stato più trascinato da quello che erano le notizie macro, specialmente da settembre in poi, dopo il fallimento di Lehman Brothers. Ecco, anche se poi leggevo, c'era un'inchiesta che così ho preso un po' a spunto anche per questa puntata, pubblicata da Corriere Economia di lunedì scorso, Piazza Affari dove può arrivare il grande rialzo. Alcuni gestori, alcuni professionisti dell'investimento, appunto ascoltati in questa inchiesta di Giuditta Marvelli, ricordano che per esempio il rialzo di queste ultime settimane è guidato da un cambiamento nella percezione del rischio, è venuto meno il timore, leggo, di una disfatta totale, e i prezzi dei titoli si sono riportati in linea con i valori fondamentali delle aziende. Non tutti sono convinti di questa circostanza, è comunque, come dire, una spiegazione quantomeno più o meno convincente. Renato Di Lorenzo, dal punto di vista tecnico, perché noi osserveremo il mercato anche da questo punto di vista questa mattina, si stanno osservando dei segnali interessanti? Qual è, per partire, un ragionamento complessivo che si può fare alla luce appunto di questo movimento molto vistoso che, lo ribadiamo, stiamo osservando dai minimi del 9 marzo? Ma direi che le cose sono andate secondo normalità, anche se può sembrare strana questa affermazione, perché in realtà si sa che è noto, no, che i rialzi di borsa incominciano quando è più dura la percezione della crisi economica, no? Quando è più dura la percezione della recessione, normalmente la borsa riparte, e sono in pochissimi quelli che ci credono, e in effetti è successo esattamente questo. Un altro fenomeno che si conosce benissimo è il fatto che dopo un rialzo, come in questo caso del 30-40% a seconda della borsa, normalmente una correzione tecnica ci sta tutta, non, per carità, questo è quello che succede normalmente. Però è anche vero quello che ho sentito dire poco fa, riportando un'opinione di JP Morgan, che normalmente c'è la corsa al treno, no? Cioè dire, molti investitori, sia istituzionali sia retail, non hanno percepito il rialzo, incominciano a percepirlo adesso e tentano in qualche modo di prendere il treno in corsa, per cui normalmente... Un altro grande tema della finanza comportamentale, questo, sì, peraltro, certo. che andrebbe sì anche esplorato. E normalmente succede appunto che in realtà il grafico esca fuori dal trend, dal canale che si è formato finora, per poi rientrarci, poi insomma chi vedrà vedrà, però ecco, normalmente questo succede e credo che succederà anche in questo caso. È anche però abbastanza naturale che coloro che definiamo investitori retail, come dire, prendano il treno in tempi un po' più ritardati rispetto a quello che possono fare invece investitori che hanno dei patrimoni da gestire più importanti, quindi cosiddetti istituzionali, perché ovviamente qui poi affrontiamo il tema della simmetria informativa, che è un'altra questione, però è oggettivamente anche normale, dottor Di Lorenzo, no? Sì, no, in effetti questo è assolutamente vero, però appunto ci sono ancora fuori anche gli investitori istituzionali. Per di più, gli investitori istituzionali in questo momento si stanno rendendo conto che i dati fondamentali su New York, ad esempio, delle aziende sono assolutamente confortanti, nel senso che le aziende, in questo momento il 72% delle aziende quotate su New York è decisamente sottovalutato. E quindi questo però per gli istituzionali è un fatto importante. Finora si sono focalizzati sull'economia, però poi a un certo punto, quando sarà abbastanza chiaro che la recessione è quella che è durissima, eccetera, eccetera, che però poi alla fine, come da tutte le recessioni, si esce fuori, incominceranno di nuovo a far premio i conti sulle singole aziende, sui fondamentali delle singole aziende. Bargiano, c'è un ascoltatore che sostiene, in realtà questo è un punto al quale volevo arrivare, ma prendo volentieri questa provocazione, non è così, di questo ascoltatore. Credo che, dice, fino a quando non si sarà sciolto il nodo General Motors, le banche non potranno essere tranquille a causa della montagna di obbligazioni emesse. Come trova questo legame, appunto, che il nostro ascoltatore fa, Bargiano? Il tema del settore automobilistico, un'altra grande spina nel fianco della crisi finanziaria, insieme allo stato di salute delle banche, però ecco, forse per il settore automobilistico non tutti i nodi si sono sciolti. Qual è la sua visione? Sì, il settore automobilistico probabilmente a livello settoriale e soprattutto per quanto riguarda i ciclici in generale è quello più a rischio, più in crisi, però se noi guardiamo il mercato nel suo complesso da un punto di vista sia azionario e tanto più nel caso specifico obbligazionario, sicuramente è un problema, ma se andiamo a vedere l'andamento degli ultimi 3-4 mesi vediamo quanto si siano ristretti gli spread e quanto abbiano performato bene le obbligazioni corporate, specialmente direi le investment grade, ovvero di qualità elevata, ma direi che anche le obbligazioni con rating più bassi, cosiddetti high yield, anzi hanno performato ancora meglio, ma qua entriamo nel discorso a cui si faceva riferimento in precedenza della propensione al rischio. Negli ultimi 4 mesi chiaramente il mercato è stato trascinato da una rinnovata propensione al rischio o quantomeno un'assolutamente minore avversione al rischio. Tutto questo ha fatto sì che tutti quei mercati, direi i mercati governativi obbligazionari, ovvero mercati con i rendimenti minori ma più sicuri, siano stati venduti e lasciati negli ultimi 4 mesi a favore di quello che era qualunque tipologia di asset di investimento, di area di investimento più rischiosa, dall'azionario all'obbligazionario dei cosiddetti paesi esotici o emergenti, dall'obbligazionario, ripeto, dell'azienda investment grade oppure high yield, di quelle con rendimenti ancora maggiori ma di più bassa qualità. Tutto questo rientra in un approccio al rischio maggiore negli ultimi 4 mesi. Ripeto, probabilmente partendo da un livello di ipervenduto, per collegarmi all'analisi tecnica, clamoroso, devo dire, dovuto chiaramente a vendite dettate dal panico, dallo scenario che c'era 3 mesi fa di un'implosione, direi, del sistema finanziario internazionale nel suo complesso. Non voglio dire una quasi fine del mondo, per usare Insomma, per un momento ci siamo spaventati abbastanza, insomma, non dico che avessimo disegnato uno scenario di questo tipo, ma io faccio sempre questo esempio: all'indomani del fallimento di Lehman Brothers sembrava che tutte le banche a domino dovessero fallire, per cui è chiaro che è stato proprio un momento in cui si è generato un panico anche parzialmente giustificato, dico, perché nessuno poteva e sapeva rassicurarci in senso contrario. D'altronde, tornando invece alla, come dire, a questo massiccio ritorno in borsa che si sta registrando appunto da qualche settimana a questa parte, certo è, Bargiano, che chiaramente è anche un po' giustificato dal fatto che con questi tassi di interesse tutto ciò che è come dire sicurezza, protezione, il settore obbligazionario non ci garantisce un bel niente. Adesso a malapena ci coprono dalla metà i titoli di Stato dall'inflazione, per cui credo che a questo punto anche questo possa provocare uno spostamento di capitali verso il mercato azionario, no? Direi sicuramente sì, questo è un altro elemento da tenere in considerazione. Le banche centrali, tutte in ultimo a livello cronologico la BCE, hanno fatto una scelta decisa in questo senso, di proprio per cercare di fermare la crisi, sostanzialmente di senza scendere in tecnicismi, di stampare moneta, comunque di immettere liquidità nel sistema, di aiutare le banche, evitare fallimenti delle banche. Si è giunti, come si è visto, anche alla nazionalizzazione delle banche. Tutto questo per cercare di mettere liquidità, sostanzialmente per far sì che il funzionamento del credito, l'erogazione del credito, che è vitale per il funzionamento dell'economia, tornasse a riprendere da parte delle istituzioni bancarie. Questo ha fatto sì chiaramente che con un'immissione di liquidità così forte da parte delle banche centrali, i tassi chiaramente sono scesi a livelli pressoché zero. Vediamo dal Giappone agli Stati Uniti, per fare un esempio dell'economia occidentale, questo può dare l'idea. Noi in Europa con i tassi all'1 siamo i paesi con i tassi più alti. Quindi la dice lunga, insomma, su quella che è la situazione è chiaro generale. Che le banche centrali sono consce di questo. In questo momento, diciamo, rispetto, ma non a tanti anni fa, rispetto a 10 mesi fa, parlo di giugno, di luglio dell'anno scorso, si è rovesciata completamente la situazione, quando la paura principale era l'inflazione. Ricordo che la BCE aveva alzato i tassi di un quarto di punto. Sì, sì, a luglio ha fatto questa manovra incredibile. Esatto, criticata da tutti, da un po' tutta la comunità finanziaria e economica internazionale, però l'ha fatta. E in questo momento la paura è esattamente l'opposta, o almeno sino a 3 anni fa era la deflazione, e di inflazione assolutamente non si parla. Chiaramente le banche centrali sono consce di tutto ciò, ma in questo momento hanno fatto una scelta precisa, ovvero cercare di evitare quella di cui parlavo in precedenza, il collasso, l'implosione del sistema finanziario globale, e quindi mettendo liquidità sono consce del rischio che sul medio lungo periodo il grosso rischio a questo punto sarà poi il fenomeno inflazionistico. Ma è chiaro che non è un problema di oggi, non è un problema del brevissimo termine, neanche nel medio probabilmente. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, come molto spesso facciamo di venerdì, facciamo un punto settimanale di borsa per capire quelli che sono stati i temi che hanno caratterizzato le sedute delle ultime giornate. È stata una settimana piuttosto intensa per quello che riguarda le notizie, molta attenzione concentrata sulle trimestrali, in particolar modo delle banche a Piazza Affari, mentre a Wall Street ancora occhi puntati certamente sulle trimestrali, ma anche sulle statistiche macroeconomiche. Abbiamo avuto questo pessimo dato sulle vendite al dettaglio che ha fatto tremare un po' di nuovo la borsa in settimana, poi di nuovo in recupero. Insomma, i temi di cui parlare sono molti. 800 24 00 24 per esprimere i vostri commenti. Allora, prima di riprendere la mia conversazione con Renato Di Lorenzo, esperto in, come dire, analisi tecnica, e adesso parleremo anche di questa disciplina che ci aiuta a studiare le tendenze del mercato, dei titoli, delle società quotate, ma è anche un consulente finanziario, docente universitario, soprattutto autore di numerose pubblicazioni per il Sole 24, l'ultima delle quali come non perdere in borsa, proteggere la posizione e gestire il rischio. E poi Bruno Bargiano, responsabile gestioni patrimoniali per Banca del Piemonte. C'era una riflessione che volevamo concludere sui tassi di interesse, prima però sento anche Gianni da Varese, che saluto. Gianni, buongiorno. Buongiorno signorina, grazie per avermi chiamato. E prima, come premessa, volevo ringraziare il vostro collaboratore, il giornalista Walter Riosi, sì, che con l'articolo del giorno 10 marzo, titolato L'eccessivo pessimismo dei, dei ribassisti, no, consigliava, sì, che le banche italiane erano buone. Io l'ho ascoltato, ho acquistato che esprimesse direttamente un consiglio. Walter, sono molto scettica, sì, aveva probabilmente riportato qualche considerazione era un giudizio sulle banche italiane che erano troppo deprezzate. Io l'ho ascoltato, ho comprato l'Unicredit a 0,80, l'ho pagato e adesso sono in guadagno, quindi lo ringrazio tanto anche per gli altri articoli che scrive a sabato sulla settimana di Borsa. Ci vuole anche un po' di coraggio, le assicuro, sì, tra l'altro, sì, che Walter ascolta la nostra trasmissione, io colgo l'occasione per salutarlo, e per cui bene, detto questo, Gianni, sì. E poi volevo dire, secondo il mio modesto parere, però vorrei sentire se sono d'accordo gli esperti, questi prezzi di borsa non li rivedremo più per tantissimi anni. Certi versi ce lo auguriamo anche, Gianni. No, guardi. Secondo me, chi non è investito in azioni, questa è l'occasione buona per iniziare ad investire, oppure chi è già investito è l'occasione per mediare i titoli buoni, anche perché i titoli di Stato cosa che danno di interesse? Danno il 2% e andiamo a finanziare uno Stato italiano che è stracarico di debiti. Se fosse un'altra società sarebbe già fallita. Allora i miei risparmi, scusa, non li do a uno stracarico di debito, dei debiti del 120% rispetto al PIL e continuo ad aumentare. No, le do a una società che produce qualcosa, che dà un utile e che a fine anno mi dà un dividendo. Vorrei sapere il parere dei suoi colleghi. Grazie, saranno mille. Molto molto contenti di darglielo, Gianni, grazie a lei. Renato Di Lorenzo, che la borsa debba essere comprata sui minimi, voglio dire, su questo non ci vuole la laurea in ingegneria nucleare per poterlo stabilire. Il tema è capire che questa crisi finanziaria quanto potesse arrivare a raschiare il fondo, quanto fosse il momento adatto, anche se poi ribadiamo sempre, se sia l'ottica di lungo periodo, ogni momento buono per andare sulla borsa, di certo un momento come questo storicamente, Gianni ha ragione, non lo avremo probabilmente mai più, ma penso anche che le aziende quotate se lo augurino, perché date le sottovalutazioni di cui parlavamo prima. Sì, bisogna sempre tenere presente che la borsa è un leading indicator dell'economia, cioè dire, è impossibile predire l'andamento della borsa in base all'andamento economico, è l'andamento della borsa che predice l'andamento economico, sempre in anticipo, no? Il Presidente degli Stati Uniti, quando vuole sapere se le cose vanno bene a casa sua in termini economici, guarda l'indice di borsa, non il contrario. Quindi detto questo, sicuramente i prezzi in questo momento sono delle società, delle aziende sono estremamente vantaggiosi, come lo erano anche di più, no? Poco tempo fa, perché voglio dire, c'è già stato un aumento del 30%. Esatto. No, ragion per cui adesso chi vuole entrare in borsa adesso fa benissimo, perché voglio dire, compra valore, compra delle aziende, come dice l'ascoltatore, che producono reddito, no? Non che lo impiegano soltanto, ma che lo producono anche, producono la ricchezza. A patto che si sia appresa anche molto bene la lezione che ha impartito questa crisi finanziaria, che ha gettato comunque, voglio dire, ha venduto tutto senza fare una selezione però sulla validità o meno industriale dei progetti su quali si puntava, Di Lorenzo. Assolutamente. Visto il momento particolare, io consiglierei però a chi vuole entrare in borsa di aspettare qualche settimana, non di più, perché probabilmente, ripeto, dopo un incremento così del 30-40%, molto probabilmente una piccola flessione, un riaggiustamento dovrebbe esserci, no? Poi magari la borsa fa quello che vuole e continua a salire, no? questo ci sta tutto, fa parte delle regole del gioco, però la logica vuole che in questo momento un assestamento del 3-4%, qualcosa del genere, ci possa stare, quindi diciamo c'è tempo per rientrare, per fare ci può dare affari. Un supporto tecnico da queste sue convinzioni, cosa dicono gli indici? E ci ricorda anche che cosa studia l'analisi tecnica, dottor Di Lorenzo, così magari gli ascoltatori che non lo sanno togliamo questa curiosità. L'analisi tecnica prende a valore nominale quello che succede sul mercato. Prende atto del fatto, appunto, che non è l'economia che permette di prevedere cosa farà la borsa, ma è esattamente l'opposto. E allora, preso atto di questo fatto, semplicemente guarda l'andamento dei prezzi e anche dei volumi, insomma, elaborando degli indicatori abbastanza semplici che si trovano su internet, fra l'altro, in modo tale da tentare di capire se è il momento, non tanto di fare delle previsioni, ma tentare di capire se è il momento di cogliere l'attimo, è il timing, no? e lo fa semplicemente su una base statistica, no? Nel senso che quando ci sono in passato si sono verificate certe configurazioni degli indici, degli oscillatori eccetera eccetera, poi normalmente è successo al 70-75% dei casi una certa cosa che ci può interessare, e si spera sempre che anche in questo caso questa regola del 70-75% venga rispettata. Quindi consente, è un trading system, non è un previsore, mm-hmm. No, l'analisi tecnica è un... No, 800, stavo ricordando il numero verde, nel frattempo volevo fare 10 cose contemporaneamente come mio solito, mentre stavo ascoltando la sua risposta avevo in mente di ridare il numero verde, che è l'800240024, stavo contemporaneamente leggendo un messaggio di un ascoltatore che ci chiede, vi pongo il seguente quesito, visto che state affrontando la questione dell'analisi tecnica: in quanto è possibile quantificare, facciamo fare due conti all'ingegner Di Lorenzo in questo caso, lo storno che ci si attende sull'S&P MIB, visto che qualcuno, insomma, questo ritorno indietro lo paventa? Lo ha quantificato con la sua analisi? Ma sì, ma storicamente è un 3-4%, 5%, gli storni sono di questi ordini di grandezza normalmente. In che arco temporale? Ma io non credo più di una settimana o due, forse meno. Insomma, la crescita è stata talmente violenta, la gente è talmente attenta a questo punto, al fatto che c'è stato un incremento del 30-40%, che credo che sarà di pochi punti percentuali e molto concentrato nel Ci tempo. Sta quindi implicitamente dicendo che il sell in May and go away potrebbe essere dietro l'angolo entro la fine del mese. Sì, di sì. Però vabbè, voglio dire, allora prendiamo questa opportunità di coloro che vendono per andare via in maggio e per tornare a ottobre, no? Perché ci offrono un'opportunità a questo punto. Allora, il numero verde ve l'ho ricordato, Bruno Bargiano, se vuole, come dire, continuare a commentare anche in termini di analisi tecnica quello che stavamo dicendo fino adesso. Però le vorrei anche chiedere, visto che noi avevamo promesso di parlare di banche e che quasi tutte le banche più importanti italiane hanno dato i loro dati trimestrali, se ci vuole fare un commento anche rispetto a quello che hanno indicato gli utili, cosa hanno detto di Unicredit, di Monte dei Paschi, di Mediolanum, piuttosto che di Banca Intesa, banche che peraltro si stanno anche accingendo a fare la richiesta dei cosiddetti Tremonti Bond, anche se non tutte hanno formalizzato, perché è stata, come dire, avviata l'istruttoria solamente per il Banco Popolare e per Monte dei Paschi. Chi avrebbe dovuto farne richiesta secondo le indicazioni date qualche mese fa, Unicredit e Banca Intesa, ancora, diciamo, una formalizzazione dell'avvio della procedura non c'è stato. Qual è il quadro della situazione che è maturato in questi giorni, Bargiano? Sì, se posso torno un secondo indietro all'intervento dell'ascoltatore, perché ha toccato, secondo me, un tema molto interessante di cui sentiremo parlare nei prossimi anni, ovvero il trasferimento di debito, di leva finanziaria di debito, quindi, dal settore privato a quello pubblico, che si sta verificando e si verificherà nei prossimi anni. Nel senso che il minore indebitamento in primis dei consumatori americani, per forza, visto tutto quello che è collegato al settore immobiliare americano, fa sì che sia a livello retail, quindi singolo consumatore, sia a livello aziendale si sta verificando una diminuzione della leva finanziaria, quindi dell'indebitamento, perché era giunto a livelli insostenibili, per di più collegato attraverso i prodotti finanziari di cui siamo a conoscenza al settore immobiliare. Con la crisi del settore immobiliare, ecco che questi prodotti sono saltati, tutte cose di cui siamo a conoscenza. Contemporaneamente, cosa è successo? Che chiaramente, per cercare di evitare il crollo del sistema, sono intervenuti i governi e le banche centrali. Questo fa sì, come diceva appunto l'ascoltatore, che sta aumentando in maniera impressionante in alcuni stati il rapporto debito-PIL. Si parlava, anche si leggeva, della Germania stessa, che potrebbe arrivare all'80% del debito-PIL, che visto dal nostro punto di vista non è neanche tanto, visto che noi siamo al 110, sì, ci accingiamo probabilmente al 100%. Però, diciamo, per i parametri della Germania è già un livello scandaloso. Esattamente. Ecco. E questo fa sì che proprio il discorso dei rendimenti potrebbero a questo punto non far altro che salire, perché sennò gli investitori istituzionali, per investire in una situazione di questo tipo, richiedono chiaramente tassi maggiori. Insomma, comunque, la gestione della crisi che adesso devono aggredire di petto i governi, la pagheremo anche noi in futuro, Bargiano, sappiamo bene come compito. Ecco. Sul lungo periodo bisognerà rientrare da questo. E come la pagheremo, o comunque il sistema come la pagherà, io penso con una crescita potenziale del prodotto interno lordo sicuramente inferiore che negli anni scorsi, perché l'intervento statale potrà essere comunque inferiore rispetto agli anni scorsi proprio per le esigenze di bilancio degli stati. Allora, prima di fare un commento sui bilanci delle banche diffusi in settimana e tornare su questo tema, vorrei sentire all'800240024 un mio corregionale, anzi quasi concittadino, Luigi D'Ancona. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica tutto. Allora, quel sito è questo. È premesso che la borsa esprime sempre valori che dovranno arrivare per le... Che dovranno arrivare, mi scusi Luigi? Successivamente, cioè sconta in anticipo. Anticipa, sì. Un'eventuale o contrazione del valore del titolo. Io in questo momento, comprando un qualsiasi titolo, potrebbe essere Fiat 740 più o meno, o Generali a 16, o qualsiasi altro titolo, sì, compro un valore che rispecchia il valore attuale del titolo o già sconta quello che sarà il titolo fra 6 mesi, fra un anno, con una possibile ripresa del mercato? Allora, se è stato chiaro, sentiamo Renato Di Lorenzo se ha, cioè in sostanza lui dice magari il valore attuale, che tipo di tendenza anticipa già? Sì, no. Delle quotazioni, dipende dai settori, dipende dai titoli di cui si parla, o si può fare un discorso generale di Lorenzo? No, certo, dipende molto dai settori, però in generale viene inglobato nel prezzo quella che è l'attesa sugli utili futuri, non gli utili futuri, perché gli utili futuri purtroppo non li conosce nessuno, nel senso che nessuno ha la sfera di cristallo. Ci sono dei budget, ma anche i budget sono opera umana, per cui non è detto che gli utili futuri effettivamente siano già inglobati. Sicuramente sono inglobati le attese che hanno gli analisti degli utili futuri e degli investitori. Quindi insomma, a giudicare dal ragionamento che ha fatto Luigi, ci sono delle grandi attese per Fiat che ha fatto da inizio anno più 62%, delle attese molto inferiori per Generali che da inizio anno ne perde il 18%. Sì, esattamente, c'è questa disparità di attese, però direi che nel caso della Fiat ovviamente nessuno sa il futuro, però santo cielo, se effettivamente va in porto questo grande disegno di Marchionne, direi che sono tutte giustificate quelle attese. Almeno per quello che riguarda le quotazioni del titolo, poi ovviamente c'è tutto l'apparato produttivo che invece ha preoccupazioni di altra natura in queste ore, ma questo è un altro discorso. Certamente. Bruno Bargiano, allora, stamattina i conti di Monte dei Paschi e il Banco Popolare, nei giorni scorsi abbiamo avuto Unicredit, Banca Intesa, abbiamo avuto Mediolanum, ci può esprimere un così giudizio generale sui conti delle banche del nostro paese? Sì, il giudizio direi che, vedendo anche la reazione di borsa, è positivo, però vorrei porre l'attenzione su un concetto. I risultati sono positivi rispetto a cosa? E questo è il punto cruciale. Rispetto a delle attese degli analisti che erano state negli ultimi mesi drasticamente ridimensionate. E che si mantenevano ovviamente verso il basso proprio per questioni di cautela e prudenza, immagino. Che stiamo parlando di un settore che è al centro della crisi internazionale, il settore finanziario, in particolar modo quello bancario. Stiamo parlando di un settore che ha non diminuito, ma azzerato in buona parte i dividendi, e questo a testimonianza della crisi, della gravità della crisi. E stiamo parlando di un settore che, e qui rispondo più nel dettaglio, rispondo alla sua domanda, e questi risultati positivi hanno due elementi che li contraddistinguono, leggendo fra le righe i bilanci, chiaramente si parla molto in generale, però il primo è che le sorprese positive rispetto all'attesa degli analisti sono state in questo primo trimestre molto spesso dettate dai cosiddetti utili da trading a livello finanziario, o posizionamenti in questo caso ad esempio su strumenti finanziari che scommettevano sul ribasso dei tassi ancora a inizio anno. Questo elemento a livello di utile sul bilancio non è un elemento strutturale, è un elemento che è molto volatile, che nei trimestri successivi può certo anche aumentare, ma può anche diminuire in maniera molto importante. Quindi non c'è una ripresa del trend degli utili al momento strutturale, c'è questo sì, quello che sembra, leggendo i bilanci per quello che si può intuire, una stabilizzazione ai livelli attuali, ecco, questo sì. L'altro elemento che è comunque per voi una buona notizia, Bargiano? Sicuramente sì, diciamo che le banche in questo momento sono concentrate soprattutto a rafforzare i rapporti patrimoniali. E infatti, con anche i tremonti bond, come dicevamo prima, crescita degli utili. Oppure con, come dire, con collocamenti sul mercato di emissioni di altro esatto, tipo per non far ricorso. Esatto, diciamo che per chi può, da quello che riusciamo a percepire, attraverso altri strumenti, ad esempio emissioni obbligazionarie, chi può evita i tremonti bond proprio perché comunque hanno delle caratteristiche piuttosto pesanti, perché comunque i tassi di interesse intorno al 7,5% che si accollerebbero i sottoscrittori. Infatti certo, se potessero ne farebbero volentieri a meno, però credo che insomma non Monte dei Paschi e il Banco Popolare almeno non ne faranno a meno, anche se per un importo che comunque tutto sommato può essere considerato contenuto, esatto, 1,5 miliardi o qualcosa, comunque faranno richieste. Le volevo far fare una domanda, Bargiano, sì, di Piero da Genova su Unicredit, credo, vero Piero? Buongiorno. Piero? Pronto? Sì, Piero, rapidissimo, grazie. Mi scusi, io non sono Piero. Chi è? Massimiliano, allora immagino. Pronto? Ma mi sembra che ha sbagliato numero, non mi ha dato ecco, il tempo di parlare. Ci mancava pure questa. Piero, ci scusi. Renato Di Lorenzo, si è portato anche qualche grafico di qualche banca italiana? Sì, ho portato Unicredit per forza e Banca Intesa, no? le più interessanti. Cosa ci può dire? Perché Unicredit, ovviamente sappiamo benissimo la storia, praticamente non ha più resistenze al di sopra, se non a 4, no? Addirittura, per cui, che cos'è una resistenza in analisi tecnica? Una resistenza è un punto sul quale il mercato in passato ha venduto più volte pesantemente o ha comprato più volte pesantemente, diciamo è ambivalente, o è resistenza o è supporto, a seconda di come ci si arriva. La resistenza generalmente è verso l'alto, il supporto esatto, è verso l'alto, sì, con la base dal quale si esatto, rimbalza. Esattamente, sì. E in questo caso qua, voglio dire, se il diavolo non ci mette la coda, adesso fino a 4 euro il territorio è completamente libero. Inesplorato. No? Inesplorato, no? Esplorato in passato, Intesa ma che non veniva più praticato da tempo. Esatto, sì. Intesa un po' meno invece. Intesa probabilmente è meno, diciamo, è meno impostata bene, è sempre in un trend ribassista, per cui qualche dubbio me lo lascia, però insomma comunque poi quando la borsa sale tutte le barche, quando la marea sale poi fa alzare tutte le barche, no? E infatti stamattina Intesa, lo dicevamo prima, fa più 5 quindi a 2,42 euro. Qual è la ricetta che offre in Come non perdere in borsa Di Lorenzo, il suo ultimo libro? Al controllo del rischio, assolutamente. Una delle cose che l'investitore al dettaglio, ma molto spesso anche gli investitori istituzionali, non adoperano nell'ordine stop loss, no? Quando si entra in borsa, si entra su Fiat a cercare di individuare il punto euro entro il quale ci si può accontentare di esatto, anche il contrario, cioè per il retail, diciamo, per l'investitore comune, il mio consiglio è quello di dire: allora io investo, che ne so, 3.000 euro, quanto sono disposto a perdere al massimo prima di sentirmi male, no? 500 euro, ok, allora 500 euro sotto, facendo tutti i conti, si mette un ordine stop, per cui se il mercato scende a quel livello viene venduto automaticamente. È una pena, è una sofferenza incredibile. Però anche perché magari con la borsa bisogna assolutamente avere il controllo del rischio, assolutamente, sì, sì. Benissimo, grazie per essere stato con noi, Renato Di Lorenzo, grazie anche a Bruno Bargiano. Non riusciamo ad andare oltre, ma Bargiano, come lei sa, ogni tanto torna a Salvadanaio, noi torneremo ad invitarla sicuramente. A presto. Bene, grazie, grazie molte, grazie anche ai nostri ascoltatori, grazie a Gaia Romani, Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, oggi Peter Bescapè in assistenza tecnica, Soldi Dintorni e Salvadanaio con me tornano come sempre lunedì, buon fine settimana a tutti.